Che tristezza, amici e compagni, la lettura in questi giorni del nuovo anno, in questi primi giorni del nuovo anno, dei titoli di testa dei giornali. Che malinconia in tutte quelle dichiarazioni di pezzi grossi della politica internazionale, di ministri europei, alti papaveri di Bruxelles, commentatori diplomatici, dirigenti dell'ONU e che altro, che si sforzano con imperturbabile faccia di bronzo di spiegare che l'attacco all'Iraq forse non ci sarà. E quanta pazienza ci vuole per sentirli ripetere una volta al giorno che non è detta l'ultima parola, che si può fare ancora questo, che si può sentire quello, che il Consiglio di sicurezza prenderà le sue decisioni, che la missione degli ispettori non ha limiti di tempo e che finora comunque quegli ispettori non hanno trovato alcunché, per cui senza prove diventa piuttosto difficile cominciare una guerra, come ha avuto il coraggio di dichiarare l'altro ieri a Le Monde quell'ineffabile Javier Solana, che dopo essersi largamente sputtanato come portavoce della NATO ai tempi dei bombardamenti sulla Jugoslavia, sembra aver trovato una nuova verginità nel ruolo di responsabile della fantomatica politica estera comune dell'Unione Europea. Che squallore quegli auspici di Prodi, le missioni di Simitis, i distinguo di Fischer e Schröder, le recipiscenze di Blair, il futile chiacchiericcio di un establishment europeo internazionale che sa benissimo che la guerra invece ci sarà ed è fermissimamente intenzionato a non fare assolutamente nulla per evitarla. E già, perché quando gli stessi giornalisti che raccolgono quelle ottimistiche dichiarazioni non si pevitano a ricordare neanche troppo tra le righe che il governo americano quella guerra la vuole comunque e che a Bush delle risultanze e delle ispezioni non potrebbe importare di meno, e dal punto di vista europeo meno ancora se possibile, è davvero difficile credere che tutto questo affannarsi possa significare qualcosa d'altro che una colossale esibizione di ipocrisia diplomatica, con la quale le classi dirigenti europee di destra o di sinistra, che siano a fare lo stesso, cercano di nascondere non tanto la propria impotenza e la propria remissività verso gli Stati Uniti, che si sa già, quanto il fatto di aver deciso una volta per tutte di non muoversi comunque dal loro fianco. Tanto è vero che poi si legge che il dispiegamento delle truppe americane nelle basi avanzate in Medio Oriente sta per essere completato a giorni, e che tutti i governi interessati, compreso il nostro, ma anche quello francese o quello russo, hanno garantito, oltre ai necessari supporti tecnici, il libero sorvolo del loro territorio agli aerei destinati a rifornire, che poi è la questione chiave. Con il che la fase della ricerca delle giustificazioni dei pretesti sembra ormai superata. Il mondo si trova di fronte, più che a una variante planetaria della classica favola del lupo e dell'agnello, a un altrettanto classico gioco delle parti, in cui la mancanza di un agnello vero e proprio, perché il ruolo notoriamente non si addice a Saddam Hussein, è compensata da una larga presenza di avvoltoi. La strage comunque ci sarà, e su quella strage tutti, ma proprio tutti, pensano di trovare il modo di lucrare la loro parte. Forse sarebbe il caso che chi si considera davvero contrario alla guerra si interroghi seriamente sulle proprie responsabilità e sugli obiettivi da prefiggersi. Se la guerra, come credo abbia detto Clemenceau, è una cosa troppo seria per lasciarla fare i generali, anche la pace è troppo importante per lasciare che se ne occupino i governi.